Il punto di Stefano Folli. È una brutta riforma elettorale quella che si sta delineando. Con ogni probabilità è transitoria, destinata a valere solo nel 2013, ma è anche l'unica possibile in questo momento, in un paese in cui il sistema politico è così debole e frantumato. Elimina il difetto principale del vecchio modello, un premio di maggioranza eccessivo rispetto ai voti raccolti, e seppellisce le illusioni e la retorica del bipolarismo in cui l'Italia si è cullata per quasi 20 anni nella speranza di diventare una democrazia europea compiuta. Non lo siamo ancora in realtà, e questa legge dovrebbe permettere di governare al centro senza eccessivi ricatti delle forze estremiste. Dovrebbe, perché in realtà nessuna legge elettorale può essere più forte della volontà popolare quando si esprime nelle urne. E l'Italia oggi è una nazione molto nervosa e dalle reazioni imprevedibili, come dimostra il voto in Sicilia. Sulla carta la prospettiva di un altro governo Monti ora è più forte, ma vedremo. Prima ci vuole di completare la riforma e poi si dovrà ascoltare la voce degli italiani.